Accogliere, abbiamo avuto ieri un'occasione bellissima, abbiamo avuto un seminario sull'evangelizzazione in modo particolare indirizzata ai musulmani ed è stato fenomenale, è stato spettacolare. Mike, questo ministro, questo missionario, è venuto dall'Inghilterra appositamente per arricchirci con degli studi. Siamo stati qui insieme, dovevamo stare 2 ore e mezza, ma non ce la facevamo a stare solo 2 ore e mezza, quindi abbiamo prolungato, siamo stati 3 ore e molti di noi volevano rimanere ancora di più per raccogliere tutto quello che il Signore ha da darci. Non perdere la prossima volta occasione di venire, perché è un arricchimento speciale. Vengono ministri da altre parti del mondo per benedirci e a volte noi ci priviamo di queste benedizioni. Non lo fare la prossima volta. Quindi quando senti notizia di un seminario di sabato che comincia alle 18, finisce alle 21, so che è un lungo periodo, ma non c'è nient'altro che è più importante e più bello di quello che puoi vivere qua, te lo assicuro. Quindi non perdere questa occasione una prossima volta. E chi lo sa quando sarà? Mi dispiace per chi non c'era. Tu c'eri? Hai preso appunti anche? Su cosa ha parlato Mike ieri? E quali erano le chiavi, quali erano gli incontri? Incontro d'amore, incontro di potenza, incontro di verità. Facciamo un applauso ad Antonio che è così preparato, bravo Antonio, interrogato davanti a tutti. I miei sono partiti, l'avete capito, no? Dalle ultime raccomandazioni, sono in Olanda e ci salutano tutti, ci abbracciano, preghiamo per loro. Sono in una, siamo tutti in una fase transitoria, come giustamente diceva Stefano stamattina, e loro in modo particolare, quindi che il Signore dia nuove indicazioni e benedizioni anche in questo tempo di pausa che si stanno prendendo, anche nello stare con i miei familiari olandesi, e che possano avere un bel tempo e che non possa piovere, perché in Olanda piove sempre ed è deprimente, quindi preghiamo per il sole, va bene? E torneranno presto, ma non troppo presto, per la mia gioia. Anche domenica prossima ci sarà la fiera, quindi è un'occasione in più per muoverci prima da casa, pregare e nel tragitto farci una bella passeggiata in fiera, perché è proprio bella. Chi è che ha fatto un giro in fiera oggi? È bella, io non ci sono stato, ma mi hanno detto che è molto bella, e mentre passeggiamo possiamo benedire le persone, addirittura possiamo imporre loro le mani, perché tanto non se ne accorge, la calca, e quindi potete toccare, benedire, Signore guariscilo, Signore salvalo, Signore spostalo che devo andare in chiesa. Quindi domenica prossima di nuovo partiamo in tempo. Ora stasera abbiamo qualcosa di eccezionale, bellissimo. Sara ha un messaggio per noi e so che è guidato da Dio in una maniera speciale, quindi apriamo le nostre orecchie, ma ancora di più il nostro cuore per ricevere quello che il Signore vuole darci. Vieni. Vuoi che prego o preghi tu? Una preghiera tua? Certo. Preghiamo. Padre, noi preghiamo per il messaggio che tu hai affidato a Sara e chiediamo in questo momento, nel nome tuo, che Spirito Santo tu possa continuare ad agire potentemente in mezzo a noi, come hai già fatto finora, adesso impartendo dentro di noi quelle cose che devono cambiare la nostra vita e possono trasformarci come solo tu sai fare attraverso la tua parola. Metti libertà nella tua serva e grazie per il suo servizio. Amen. Amen. Ciao Chiesa! Benvenuta! Il pastore mi ha chiesto: vuoi che prego prima di cominciare? Certo, chi non vorrebbe la preghiera del pastore? Cioè, persone pagano per questo, no? No. Nessuno paga per questo. Pastore, io proclamo un tempo... No, sto scherzando. Io e mio marito amiamo il nostro pastore. Quanti amano con noi il nostro pastore? Oh, pastore, la tua chiesa ti ama. Tanto, tanto, bellissimo. Ah, la settimana scorsa non c'eravamo, molti di noi erano ad una conferenza che si chiama Overdose, che significa una dose estrema dello Spirito Santo. Chiesa, c'erano riunite insieme 450, ragazzi di 48 chiese differenti. È stato incredibile. Alza la mano se sei venuto ad Overdose, lo puoi riconoscere dalla loro faccia, perché è stato incredibile, straordinario. Abbiamo fatto un pieno dello Spirito Santo. E quindi la settimana scorsa ero a questa conferenza e ho visto che i messaggi duravano molto a lungo, quindi ho detto: Signore, voglio la stessa unzione. E quindi chi è con me per un messaggio molto lungo? Grazie, grazie. dopo il pastore vi offre qualcosa al bar per questo. Scherzo, ma il Signore ha messo un messaggio nel mio cuore. Sinceramente, dopo stamattina avrei tanto voluto che il pastore decidesse di far predicare mio marito anche stasera, perché il suo messaggio stamattina, il messaggio che Dio ha dato a mio marito per la Chiesa, è stato incredibile. Per chi ha l'opportunità, da domani sarà su YouTube, vallo ad ascoltare, perché è bellissimo e da qui si vede chi è il miglior predicatore della nostra casa, e cioè il mio fantastico marito che stamattina ha predicato e stasera è dietro la telecamera. E sono onorata di vivere con un servo così. Siamo pronti? Dai, ci siamo! Io avevo nel cuore, dall'inizio della settimana, solo un piccolo verso. La mia squadra lo sa, eravamo insieme, il Signore mi ha dato un verso. E poi era così bello che ho detto, ma vediamo tutto il capitolo. Quindi stasera, vuoi che predico solo sul verso o su tutto il capitolo? Yes! Ci piace! Il verso è uno dei versi più conosciuti della parola di Dio. Ed è un verso che dice così, io ve lo cito solo inizialmente e so che voi lo continuerete. E Davide disse, io non offrirò al Signore nulla che non mi costi. Oh, pensavo fosse più conosciuto. Dì alla persona vicina a te, conoscilo sto verso, imparalo a memoria. Nella Bibbia c'è un personaggio straordinario che si chiama Davide e dice, io non offrirò al Signore qualcosa che non mi costi nulla. E infatti il titolo del messaggio di oggi è gratis? No, grazie. Gratis? No, grazie. Chi è come me, patito, dipendente? Facciamo così, chi ama fare shopping? Oh, Signore, grazie, che non so... Dov'è Teresa? Teresa di Mottola. Ah, Teresa, gloria a Dio per Teresa. Lei ama comprare le scarpe come me, che bello. Quando una cosa è costa poco, ok? Io penso questo, se compri una cosa bella, bello. Se compri una cosa che costa poco ed è bella, è bellissima, è straordinaria. Se compri una cosa che volevi ed è in saldo al 30%, ci pensi un attimo. Se è in saldo al 50%, ehi, se è in saldo al 70%, io amo i saldi al 70%, amo i saldi quando vai nel negozio e trovi il cartellino rosso, perché il rosso comunica l'urgenza e ti comunica l'urgenza di comprarlo, e ci sono gli stock, no? La maggior parte dei vestiti che metto sono presi in quel momento, no? Tipo Spirito Santo guidami a prendere la cosa più bella che costa poco, bellissimo. E io sono lì, mio marito lo sa, quando cominciano i saldi, c'è una mania delle donne che è quello di vedere tutto, non comprare niente. Io sono così, io vedo tutto, non compro niente. Se però è a saldo una cosa, ci pensi tanto, eh? Ci pensi tanto. Stasera voglio parlarvi di una mentalità che nella Bibbia è scritta tante volte, che è una mentalità del non vivere negli sconti. Non mi piace questa mentalità, perché io amo gli sconti, no? Se andate alla fiera, contrattate, io sono commerciante di natura, quindi tu mi spari un numero, io te ne sparo un po' di meno e contrattiamo. Ci sono persone insegnanti di questo mestiere in mezzo a noi, no? E quindi io sto pregando perché ci diano questo locale gratis, ok? Quindi io sto pregando, Signore convinci tu, non al 70% gratis, e io so che vedrò un amen a questa preghiera. Chiesa con me? Amen. Leggiamo questa storia, bellissima, la leggeremo insieme, è un intero capitolo. Non perderti, perché è molto bella. È descritto in 1 Cronache 21, ma è anche scritto nel libro di 2 Samuele 24. Sono due libri paralleli che parlano delle stesse storie, ma noi la prendiamo da 1 Cronache 21. Dice così, comincia così il capitolo. Ora Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento di Israele. Così Davide disse a Joab e ai capi del suo popolo: andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba a Dan. Quindi presentatemi il rapporto perché conosca il loro numero. Io salto qualche versetto, così andiamo più veloce. Joab consegnò a Davide il numero del censimento del popolo. In tutto Israele c'erano 1.100.000 uomini atti a maneggiare la spada e in Giuda 470.000 uomini atti a maneggiare la spada. Questa cosa dispiacque a Dio. Perciò colpì Israele. E così Davide disse a Dio: io ho gravemente peccato facendo questa cosa, ma ora ti prego rimuovi l'iniquità del tuo servo perché ho agito con grande stoltezza. Solo Davide riesce a dire queste cose nella parola di Dio. Quanta capacità di chiedere perdono a quest'uomo. Allora l'Eterno parlò a Gad, il veggente di Davide, un po' un profeta, dicendo: va a dire a Davide, così dice l'Eterno, io ti propongo tre cose, scegliti una di queste e io la seguirò per te. Gad andò da Davide e gli disse: così dice l'Eterno, scegliti o 3 anni di carestia, oppure 3 mesi di distruzione davanti ai tuoi avversari, durante i quali la spada dei tuoi nemici ti raggiungerà, oppure 3 giorni porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Oppure 3 giorni di spada dell'Eterno, ossia la peste nel paese, durante i quali l'angelo dell'Eterno porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Ora fammi sapere la risposta che devo riferire a colui che mi ha mandato. Giusto qui. Il peccato produce morte, ma Cristo Gesù è venuto per darci una vita e per darci una vita abbondante in Lui. Per togliere il peccato. Nell'Antico Testamento Dio doveva punire il peccato perché non c'era un altro modo per risolvere il problema. Nel Nuovo Testamento troviamo il risolutore, troviamo la soluzione. Per questo leggiamo ancora nell'Antico Testamento, lo dico per chi è qui nella prima volta o per le prime volte, che non stiamo parlando di un Dio cattivo che vuole punirti per i peccati che hai compiuto, perché non viviamo nell'Antico Testamento, ma viviamo, gloria a Dio, nel Nuovo Testamento, un testamento in cui c'è un nuovo patto ed è un patto in cui Cristo Gesù è il salvatore della nostra vita e Lui ha pagato per i nostri peccati. E quello che dovrebbe succedere non succede più, perché è successo a Lui una volta e per sempre nella croce, in cui Lui ha vinto, è morto ed è anche risorto per noi. Ho fatto un piano di salvezza, di ore di insegnamento, in un minuto. Sei con me ancora? Davide disse a Gad: io sono in una grande angoscia, che io cada nelle mani dell'Eterno, perché le sue compassioni sono grandissime, ma che non cada nelle mani degli uomini. Così l'Eterno mandò la peste in Israele e morirono in 3 giorni 70.000 persone. Dio mandò pure un angelo a Gerusalemme per distruggerla, ma mentre egli si apprestava a distruggere, l'Eterno volse lo sguardo, si pentì della calamità inflitta e disse all'angelo che distruggeva: ora basta, trattieni la tua mano. L'angelo dell'Eterno stava in piedi presso l'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide, alzati gli occhi, vide l'angelo dell'Eterno che stava fra terra e cielo, con in mano una spada sguainata, teso sopra Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, vestiti di sacco, caddero con la faccia a terra. E Davide disse a Dio: non sono forse stato io a ordinare il censimento del popolo? Sono stato io a peccare e a fare il male. Ma costoro, il gregge, che cosa hanno fatto? Ti prego, Eterno mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non colpisca il tuo popolo con questa calamità. Allora l'angelo dell'Eterno ordinò a Gad di dire a Davide che Davide salisse ad erigere un altare all'Eterno nell'aia di Ornan, il Gebuseo. E così Davide salì, secondo la parola che Gad aveva pronunziato nel nome dell'Eterno. Quando Davide giunse presso Ornan, Ornan guardò e riconobbe Davide. Uscì quindi dall'aia e si prestò davanti a Davide con la faccia a terra. E allora Davide disse a Ornan: cedimi l'area dell'aia perché vi costruisca un altare all'Eterno. Cedimelo per tutto il suo valore affinché la calamità cessi di infierire sul popolo. Ornan disse a Davide: prendilo e il re, mio signore, faccia ciò che è meglio e che gli pare. Ecco, io ti do anche dei buoi per gli olocausti, gli attrezzi da trebbiare per la legna e il grano per l'oblazione di cibo, ti do tutto. Ma il re Davide disse a Ornan: no, io voglio acquistare per l'intero il suo valore, perché non prenderò per l'Eterno ciò che appartiene a te e non offrirò un olocausto che non mi costi nulla. Bellissimo, bellissimo. Vogliamo pregare un attimo? Chiudi gli occhi, metti un braccio intorno alla persona che è vicino. Signore Gesù, questa mentalità è troppo straordinaria perché noi la possiamo capire da noi stessi. Io ti prego, Spirito Santo, di ministrarla alla nostra mente in maniera soprannaturale, che il tuo tocco possa ministrare alla nostra mente questa tua mentalità rivoluzionaria di adorazione, di offerta, di generosità, di pentimento e di grazia, nel tuo nome Gesù. Amen. Amen. Quando eravamo in America, chi di voi ricorda che eravamo in America? Io so che sto confessando tutte le mie dipendenze, ok? Mi piace lo shopping e mi piace Starbucks, che è una nota marca di caffè. E in America, in tutto il mondo in realtà, è famosa Starbucks. Chi conosce Starbucks? Ok. La maggior parte del mondo ha questi caffè, questi bar, dove tu puoi stare, c'è cioè wifi, puoi lavorare, puoi prenderti 1,5 milioni di caffè diversi. E io ho una piccola dipendenza dal caffè, ora chiesa vi ho proprio aperto tutto il mio cuore, o mi perdonate oppure veramente sarò legata per sempre. No, ho fatto digiuno di caffè, il Signore mi ha liberato, amen. Siete contenti? Ok. Però mentre ero in America c'era Starbucks, che è una delle cose che amo di più, quindi io andavo lì, mio marito stava lavorando a casa, noi abitavamo in un posto straordinario, c'era stata offerta una casa in mezzo ai monti con il lago, sentite, non c'era niente, c'erano tantissime case, c'erano 3 cervi che ci venivano a trovare nel giardino, c'era un supermercato e lo Starbucks, quindi il Signore è colui che provvede ad ogni mia dipendenza. C'era uno Starbucks in mezzo al niente. E io potevo andare lì, e sapete una cosa, il primo giorno che sono stata in America avevo sentito questa cosa, che persone arrivavano a Starbucks e sfoggiavano una carta fedeltà. Io amo le carte fedeltà, cioè se io posso andare sempre in un posto dove posso avere gli sconti, e che la banca mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno quando sono andata a prelevare. Io amo queste cose. No, che tu quando sei cliente, no, loro ti conoscono, mi piace andare nei posti in cui ti salutano con il nome. E c'era questa carta fedeltà, si chiama la Gold Card. Era dorata, era bellissima. Tutti in America ce l'avevano e ho detto a Vito, io voglio una Gold Card. E allora quando lo dicevo alle persone che mi conoscevano, dicevano, è impossibile che tu in 3 mesi abbia la Gold Card. E ho detto, che cosa si può fare per avere la Gold Card? Si compra? Fa, no, devi bere 30 bibite e devi mettere su, e poi devi fare con l'app, eccetera, eccetera. E ho detto, 30 bibite in 3 mesi? Ma io me ne prendo 3 di Gold Card, cioè c'ho 3 mesi, vado ogni giorno. E quindi poi non sono andata ogni giorno perché mio marito non voleva mettere un mutuo per pagare il mio caffè a Starbucks, che costa un botto di soldi, però mi sono impegnata con tutta me stessa a tornare lì a prendere il mio caffè, il mio frappuccino coffee, la mia bevanda energetica, bellissimo, no? Andavo lì e tutti mi dicevano, è impossibile che avrai questa Gold Card. E io dicevo, no, io ce l'avrò. Sapete una cosa? Io l'ho avuta. Amen. Perché sono una donna di fede. Quando confesso una cosa, quella cosa accade, ok? L'ultima settimana che eravamo in America, sul mio telefono mi è arrivata la scritta, tin tin tin, le stelline, e poi si è illuminata, è uscita questa Gold Card. Che dopo una settimana mi hanno mandato, ma io non ero più in America, me l'hanno mandata in Italia. Una cosa così inutile, perché non esiste Starbucks in Italia, e quindi ho avuto questa carta inutilmente, ma l'avevo conquistata. E voi state pensando, forse che cosa c'è di, non so, di Fidelity, che la carta ti dava niente. Però dopo 30 bibite, avevi una bibita gratis, ok? Allora io ero lì e il mio telefono si è illuminato nella notte e quindi io mi sono svegliata, ero in pigiama e dico a mio marito, Vi, io sto uscendo. Lui mi ha detto, dove vai? Vado a prendere la mia bibita gratis, la mia Gold Card a Starbucks. Così arrivo a Starbucks, non ho salutato nessuno, ho messo il telefono così, ho guardato la signorina, non ho detto niente, ho fatto solo così. Ce l'ho. What? Cosa? La Gold Card! Cioè io ho la Gold Card, bellissimo! Che cosa? E lei mi ha detto, bellissimo, hai la Gold Card! Mi hanno fatto una festa, straordinario! Che cosa vuoi come bibita gratis? Wow! Ma ho una bibita gratis dopo 30 che mi ho pagate! Così ho detto, qual è la bibita che preferisce mio marito? E mio marito preferiva una bibita speciale. Così ho detto, posso prenderla di qualsiasi misura, perché lì puoi scegliere. Dice, sì, qualsiasi misura. E dico, anche quella più grande. Sì, voglio quella bibita della misura più grande che avete. E fa, oh, bellissimo, me la danno. E poi loro sono molto gentili, no? Ti dicono, goditela. E io gli dico, non è per me, è per mio marito. E quindi sono arrivata a casa, tutta felice, ancora in pigiama, e mio marito mi vede arrivare con questo caffè enorme, un 20, e mi fa, amore, quanto l'hai pagato questo caffè? E io gli ho detto, amore mio, ho avuto la gold card, ho avuto una bibita gratis e la voglio dare a te, perché ti voglio onorare. E qui dovrebbe scattare un applauso per miglior moglie dell'anno, perché io credo che in quel momento Gesù mi ha messo una targhetta, miglior moglie dell'anno, sta anelando ad una bibita e la regala a suo marito. Questa è una storia di generosità, è una storia stupida, però è una storia stupida. Che cosa? Questo è perché c'è mio marito, ok? Marito, non vale fare certe cose, ok? Non vale, ok? Oh, non vale, amo, questa poi a casa, va bene? Ok, queste sono cose che si lavano in casa, no? Questa è una storia, voglio la targhetta ora, ok? Questa è una storia scema, ok? Stupida, è una donare una cosa gratis. Quanto valore ha? Basta ridere, ragazzi! Dovete ridere le cose che dico io, non quelle che scrive mio marito sullo schermo, ok? Per chi ci sta seguendo da YouTube, uno spirito si è impossessato dello schermo e sta scrivendo delle cose cattive su di me dietro. Però la storia di Davide è una storia soprannaturale. È una storia soprannaturale. Qualcuno ti offre qualcosa, ti dice prendi tutto, ti do tutto quello che ti serve, e Davide dice no, non lo voglio, non lo farei mai. È una storia soprannaturale e comincia con il raccontarci la storia soprannaturale, perché comincia dicendo che Satana istigò Davide a fare il censimento. Sara, che significa che Satana può istigarci? Sì. E questa cosa si chiama tentazione, si chiama vecchia natura, si chiama sussurro della parte peggiore di te, che è la parte meno rinnovata, che è la parte in cui Cristo Gesù non è ancora entrato. Ora, togliamo il 50% delle colpe che noi diamo a Satana, che noi non siamo in grado magari di avere autocontrollo sulle cose, diciamo, Satana mi ha tentato, però in questa storia davvero Satana ha suggerito a Davide qualcosa. Satana può lavorare su di noi, Satana può lavorare su di noi. Quello che abbiamo fatto fino ad ora, quello che il pastore ha fatto prima, è pregare, perché noi viviamo in due regni, uno di Dio e l'altro di Satana. E noi viviamo con due re. Uno è Dio e l'altro è Satana, due re e due regni. E noi siamo al centro, e siamo al centro fino a quando non moriremo. Ma in questa battaglia noi possiamo combattere da vincitori, da combattenti vincitori, da guerrieri che sanno già come andrà a finire questa battaglia. Sapete, tutti quanti noi stiamo soffrendo per tutte le notizie che noi vediamo ogni giorno alla TV. Ognuno di noi sta soffrendo per i cristiani che vengono ammazzati in tutto il mondo, per l'opera dell'ISIS, per gli omicidi assurdi che vediamo, per i suicidi che avvengono, per le chiese che vengono buttate all'aria, incendiate, per le cose brutte che accadono ai figli di Dio. Ma la brutta notizia è questa, che queste cose devono avvenire. E avverranno sempre di più, questo nella Bibbia è scritto. Quando quanti di noi sono scandalizzati, mettiamo link sulle teorie gender per proteggere i nostri figli, sai una cosa, purtroppo, e non è una mia profezia, ma è una profezia che viene dalla parola di Dio, questi tempi sono malvagi e lo diventeranno sempre di più. E le cose che accadranno diventeranno sempre più brutte. Perché? Perché la buona notizia è che Cristo Gesù torna. E quando Lui torna, Lui cambia la storia, Lui stravolge ogni regola, Lui fa la differenza e Lui mette a tacere Satana completamente. In questo momento ogni battaglia che noi possiamo vivere nella nostra carne, nella nostra anima, nel nostro spirito, ha una fine predefinita, ha una vittoria, ha una conclusione che tutti quanti noi possiamo apprezzare e vivere, perché è la vittoria che noi abbiamo in Cristo Gesù nella croce. Amen? Amen, Chiesa? Ti senti frustrato da questa battaglia? Ma ti senti vittorioso? E io credo che noi dovremmo vivere in quella prospettiva per cui, Satana mi vuole ammazzare, ok, però io sono vittorioso. E Satana sta facendo tutte queste cose, ma noi vinciamo in Cristo Gesù. Sapete, Chiesa, qual è veramente l'unica cosa che ci rimane da fare? È strappare quante più anime a Satana prima che Gesù torni. È veramente questo il lavoro di noi come Chiesa. Noi non possiamo rallentare le teorie gender, noi non possiamo rallentare la sessualità distorta, noi non possiamo fermare l'ISIS, noi non possiamo fermare il traffico umano di donne, noi non possiamo fermare i crimini, la prostituzione, però noi possiamo strappare quante più anime a Satana. Noi possiamo strappare con il tempo che ci rimane, con le nostre capacità, con quello che Dio ci ha chiamati a vivere, quante più anime a Satana. Venerdì una ragazza veniva da me e diceva: io temo, io voglio parlare di Gesù ai miei amici, però io ho paura che questi miei amici il giorno dopo non mi rivolgano più la parola, perché ora ho cominciato questa scuola e ci tengo ai miei amici, non li voglio perdere. Io gli ho detto: ma lo sai che se i tuoi amici non conoscono Gesù vanno all'inferno? Li vuoi bene ai tuoi amici? Allora parla di questa salvezza che tu hai, che stai abbracciando ora. Chiesa, questa è una mentalità soprannaturale. Satana ci sussurra schifezze, Satana ci sussurra cose da fare sbagliate, Satana ci ispira schifo. Noi vogliamo fare la differenza, noi sappiamo che possiamo fare diversamente, e per questo questa è una storia soprannaturale, perché noi possiamo combattere da vittoriosi questa battaglia nella quale viviamo e nella quale dobbiamo vivere. Questa è una storia di orgoglio, perché Satana ha ispirato Davide a fare il censimento. Che cosa è questo censimento? Significava mettere tutti i nomi, tutti i numeri di tutte le persone, di tutte le tribù del popolo di Israele. Un lavoro immane che Dio stesso ha fatto fare per primo a Mosè. Vi ricordate? Gli ha detto, lo troviamo in Esodo, conta tutti i miei figli di ogni tribù. Esodo, in Esodo abbiamo tutte queste, cioè che Dio chiede a Mosè di fare il censimento, e in Numeri, infatti il libro prende l'avvio dal fatto che ci sono un sacco di numeri, troviamo tutti i numeri del censimento. E Dio continua in buona parte della sua parola a fare censimenti. È un censimento, se vi ricordate, che porta Giuseppe e Maria a fermarsi a Betlemme per far nascere Gesù, perché andavano a fare il censimento. Il censimento Dio lo ha ordinato a molti re: conta il mio popolo. Ma Davide l'ha fatto per lui, non l'ha fatto perché Dio gliel'ha detto di fare. Davide lo ha fatto perché voleva controllare, voleva contare la sua potenza. Davide voleva contare su quante persone lui fosse re. E se leggiamo un po' meglio la storia di Davide, era un momento della sua vita in cui gli erano capitate un sacco di cose. Sentite, io leggo spesso la storia di Davide. Per me è assurdo che Dio lo chiami l'uomo dal cuore di Dio, che la Bibbia lo chiami l'uomo dal cuore di Dio. Perché ha fatto tante di quelle schifezze, ha fatto tante di quelle cose così stupide, che io dico: ma Signore, io non lo farei, sinceramente non lo farei. Ma perché lui l'ha fatto? E perché? E poi capiremo perché Dio lo chiama l'uomo dal suo cuore. Davide era in una fase di leadership così insicura da fare delle cavolate. E questo io prego che parli a tutti noi leader, che quando viviamo una fase di insicurezza, noi capigruppo, a noi leader delle aree nella Chiesa, un leader insicuro è un leader che non fa le cose che Dio chiede. Un leader insicuro è un leader che cerca di fare delle cose che gli danno sicurezza, dimenticando che la nostra sicurezza proviene solamente da Cristo Gesù. Solo da Cristo Gesù. Dio non gli aveva chiesto di fare il censimento, Davide lo ha fatto e qualcuno gli ha detto: guarda che Dio non lo vuole, quindi per questo pagheremo. No, fa niente, non ti preoccupare, sono morte 70.000 persone. 70.000 persone sono nate perché? Perché Satana ha ispirato nel cuore di Davide orgoglio. E l'orgoglio è una grande coperta che nasconde sentimenti di inferiorità, frustrazioni, stress, bugie che ci diciamo a noi stessi, sentimenti di inadeguatezza, sentimenti di non dignità, di non sentirci degni. Non voglio far alzare la mano con quanti di noi combattono con l'orgoglio, ma Chiesa, svegliamoci, perché l'orgoglio sarà la prima arma che Satana scaglierà contro i suoi figli, perché lui è il Dio dell'orgoglio. Lui si è inorgoglito presso Dio, è stato cacciato dalla sua presenza. Pensate che costruisca un'arma diversa? Attenti al nostro orgoglio. Perché Dio ha chiamato Davide un uomo dal suo cuore? Perché Davide sbagliava, era orgoglioso, ha fatto un sacco di schifezze, ma non ha mai perso l'occasione di tornare da Dio e di chiedere perdono. Quanto era il suo orgoglio, quanto era la sua testardaggine, quanto era la sua schifezza, tanto era la sua capacità di tornare in ginocchio da Dio e dirgli: Signore, perdonami. Ve lo ricordate nella storia? Appena Davide fa il censimento, torna indietro e dice: no, che ho fatto? Mannaggia a me, non dovevo farlo, non dovevo farlo. E poi il profeta gli ha detto: mo, come dobbiamo espiare questo peccato? Che facciamo? Muori per i tuoi nemici, muori per la mano di Dio o muori per la peste? E Davide ha scelto la cosa peggiore, forse. Ma 70.000 persone sono morte nello stesso momento. Chiesa, quando pecchiamo, la soluzione è solamente una, è chiedere perdono. E chiedere perdono, e tornare a Dio e dire: Signore, ma come mi è venuto? Ma come ho fatto? Come ho fatto? Come ho fatto? E io sento forte in questo momento che stai pensando, c'è qualcuno in mezzo a noi che sta pensando: io non ho peccato, ma altre persone hanno peccato per me. Questa voce è la voce dell'orgoglio. Perché una persona orgogliosa guarda il peccato negli altri? La persona umile guarda il peccato in se stesso e lo arrende davanti a Dio. Quindi, per piacere, smettila di far scrivere la tua storia a qualcun altro. Ma prendi la tua responsabilità, non nel linciarti e nel tagliarti, ma semplicemente nell'andare davanti a Dio e chiedere perdono. Ti piace? Questa è una storia di piani B. Questa è una storia di piani B. Qualcuno ha detto: Dio ha un piano B, C, D, E, F, G e tanti altri. Questa è una storia di piani B, perché nel verso 17 dice: Davide disse a Dio: non sono forse stato io a ordinare il censimento al popolo, sono stato io a peccare e a fare il male, ma costoro, il gregge, che cosa hanno fatto? Signore, non mandare questa calamità, ti prego che non colpisca il mio popolo. E Dio che cosa fa? No, ora paghi e muori tu e tutto il popolo. Io farei così. Sinceramente, nel mio orgoglio, quando una persona sbaglia, uno spirito si investe di me che mi fa mettere la mano così, la gamba così, dice: no, mo, devi pagare. Ora è il tuo turno per pagare per chi hai sbagliato. Io ringrazio Dio ogni giorno, ogni momento della mia vita, che Lui non fa così con me. Che Lui non fa così con noi, perché in Dio noi abbiamo la possibilità di riscrivere la nostra storia. È l'unica volta in cui tutta la storia che è stata scritta nella tua vita, fino al giorno in cui incontri Gesù, Dio la può prendere, togliere di mezzo e cominciarne a scrivere un'altra nuova. E grazie Dio perché hai scritto una storia nuova per ognuno di noi. E se sei qui, io ti dico che Dio vuole scrivere una storia nuova per te, perché Dio non ha solamente un piano B per te, Dio ha un piano C, D, E, F e tutti i piani che ci servono per essere ristabiliti alla sua presenza. Amen? Dove sei arrivato tu alla lettera dell'alfabeto? Io mi sa che sono in qualche altro alfabeto perché ho superato le 21 lettere, ma Dio ci dà la possibilità di scrivere un nuovo piano. Dio oggi, ascoltami un attimo, non importa quanto grave sia la tua schifezza, non importa quanto lontano tu sia andato, non importa quanto pesanti sono i tuoi peccati, Dio oggi vuole scrivere una storia nuova. Dai la possibilità a questo Dio potente di scrivere un piano B della tua vita. Lo vuoi un piano B per la tua vita? Chi vuole un piano B stasera? Wow, quanti? Io voglio un piano B. Signore, grazie perché ci dai piani B. Dio è un Dio che ci dà sempre una possibilità per essere recuperati. Non importa quanto errori, non importa quanto schifo, non importa quanto peccato, Dio ti vuole recuperare stasera. Dio ti vuole recuperare stasera. Ti piace? Questa è una storia di onore. Abbiamo detto che è una storia soprannaturale, che è una storia di orgoglio, che è una storia di piani B e che è una storia di onore. Vi ricordate la storia cosa dice? Verso 23. Ornan disse a Davide: prenditelo, il re, il mio signore, faccia ciò che meglio gli pare, ecco, io ti do anche i buoi, gli olocausti, gli attrezzi per trebbiare la legna, il grano, l'oblazione di cibo, ti do tutto. Incredibile, Ornan riconosce la sua autorità. La sua autorità, chi era? Davide. Davide dice, io non offrirò niente che alla mia autorità, a Dio, non sia tutto. Io non offrirò niente che non mi costi. Ogni persona di questa storia ha riconosciuto la sua autorità, l'autorità che aveva sopra. Sapete cosa ha fatto? L'ha onorata. Sara, ma che significa questa parola? Sapete una cosa? C'è un solo verso nella Bibbia che ci chiede di combattere. C'è un solo verso in cui ci viene scritto fai a gara con gli altri. Sapete in che cosa? Nell'onorare. C'è scritto questo in Romani 12, 10. Quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Io amo la mia chiesa perché è una chiesa che vive nella cultura dell'onorarsi. Il nostro pastore ci onora in continuazione. Sapete, io sto predicando in questo momento. E non perché il pastore Pinuccio mi abbia messo a predicare da tanti anni. No, il pastore Mirko ha scelto che io predicassi qui. E lui predica in una maniera 100.000 volte più potente, 100.000 volte meglio. Li sentiamo i suoi messaggi come Dio li sta ispirando. Grazie pastore per quello che ci stai dando, ma mi onori nel farmi essere qui. Questo è onorarsi e fare a gara. Noi scegliamo di onorare. Sapete la nostra mentalità che c'è fuori da questa chiesa qual è? Non te li faccio i complimenti, se no ti inorgoglisci. Non ti faccio i complimenti perché può sembrare che io sia un lecchino, perché la mentalità dell'onorare fuori da questa chiesa si chiama lecchinaggio, si chiama captatio benevolentia, si chiama mazzetta, si chiama facciamo qualcosa per ricevere qualcosa in cambio. La Bibbia ci mostra che l'onorare è sacro, che l'onorare è biblico. Parlare bene dei tuoi responsabili, parlare bene dei tuoi leader, parlare bene dei tuoi genitori, parlare bene della tua famiglia, ascoltami Upside Down, parlare bene dei tuoi professori, parlare bene della tua famiglia, dei tuoi fratelli, dei tuoi sorelli. Onorarsi è un comandamento biblico. La Bibbia dice onora tuo padre e tua madre e avrai una vita buona. Non c'è scritto onora tuo padre e tua madre se sono bravi, ti danno i soldi per la paghetta, ti comprano il telefono, il motorino e ti danno i vestiti firmati. No. Io mi chiedo, molte volte, molti ragazzi mi chiedono, Sara, ma come faccio ad onorare una persona che mi perseguita, che è mio padre o mia madre? La Bibbia non ha detto onora tuo padre e tua madre se sono dei buoni genitori. La Bibbia dice onora tuo padre e tua madre, punto. Sono delle autorità per te. Chiesa, spendiamoci, io amo onorare, per quanto sia stato gratis, amore mio, quel caffè, ti ho voluto onorare con quel caffè, perché era il mio caffè di Starbucks ricevuto dopo 30 pagati. E quindi onoriamoci, facciamo a gara nell'onorarci, facciamo a gara. Come puoi onorare tu? Non lo so. Però io so una cosa, il pastore Pinuccio e Sofia non ci sono. Se io voglio veramente onorare il mio pastore Mirko, devo andare a casa sua e lavare tutti i piatti che in questa settimana non ha lavato. E io lo voglio onorare, no, li ha lavati o ha invitato qualcuno a lavarli, ok? Ma se vogliamo onorare qualcuno, significa fare del bene, parlare parole positive, avere rispetto, portare onore. Stai onorando le persone che sono sopra di te? Stai onorando i tuoi leader? Gli stai dicendo grazie? Stai dicendo grazie al tuo pastore, stai dicendo grazie ai tuoi genitori, stai dicendo grazie a tuo marito. Stai dicendo grazie a tuo marito. Questo è un tuo leader. Lui è il tuo leader, parlo alle donne. Dio ha preposto questo. Stiamo parlando parole buone. Stiamo parlando bene delle autorità che ci sono preposte. Questa è una storia di onore perché ci insegna che vuol dire onorare. Ornan ha visto Davide e ha detto, ma come faccio a prendermi i soldi del terreno, da te, che sei il mio leader. Ma io ti voglio onorare, ti do non solo il terreno, ti do gli animali, la legna e tutto quanto. E Davide dice, no, io devo onorare il mio leader, che è il mio signore. E lo voglio onorare con tutto quello che mi costa. Perché questa chiesa è una storia di onore. Perché Davide voleva espiare il peccato, Dio gliel'ha fatto espiare tramite la pestilenza, e poi ha detto vieni ad adorarmi, costruisci un altare. E Davide dal suo cuore, che bellissima mentalità, mentalità soprannaturale, da Davide gli è stato detto gratis, e Davide ha risposto no grazie, io non voglio una cosa gratis, io voglio pagare tutto il prezzo, anzi di più. Infatti vediamo che Davide ha pagato molto di più di quello che valeva quel terreno. La mentalità del mondo, la mentalità che c'è fuori di qui è: prendi tutto quello che puoi prendere e se non lo paghi è meglio. Anzi, cerca di afferrare quanto più puoi, cerca di fregare quanto più puoi, cerca di imbrogliare quanto più puoi per prendere dagli altri. Ehi, Dio vuole un'offerta che venga dal nostro cuore, che non viene dal nostro portafogli. Sapete che cosa ha offerto Davide veramente? Ha offerto un cuore pieno di onore, non dei soldi, era un re, poteva permettersi tutto, era tutto suo, ok? Che cosa c'è nella tua vita con cui puoi onorare Dio? Che cosa c'è di così prezioso che Dio oggi ci chiede di mettere sull'altare per onorarlo, per dirgli: Signore, sei un Dio grandioso, Signore, io ti amo profondamente, tutto quello che ho è tuo, tutto quello che è mio non è mio, è tuo e te lo voglio dare. Che cosa c'è oggi che possiamo offrire lì? Che cosa c'è? E oggi la parola di Dio ci insegna di non fare sconti. No, no, Gesù, ti offro solo questo. Ti pago solamente i buoi, perché il terreno me l'ha offerto a Ornan, ok? E la legna, ma vabbè, la legna, diciamo, gli alberi così, no? Quante volte facciamo così con Dio? Una mentalità che onora è una mentalità che dice: gratis? No, grazie. Io voglio dare tutto. Voglio dare tutto, tutto, tutto. Tutto quello che c'è, tutto quello che posso dare, quello che ho, quello che non ho, tutto voglio darlo a Dio, perché Lui merita ogni gloria, Lui merita ogni onore. Chiesa, se pensiamo che questa gloria e questo onore Dio lo prenda dalle nostre labbra solamente mentre cantiamo dei canti che non abbiamo scritto noi e che cantiamo in maniera distratta, dobbiamo capire di più dell'adorazione. Dobbiamo chiedere che Dio ci illumini la mente per capire molto di più che cos'è l'adorazione. Questo era un cuore che adorava dando tutto, dando tutto. Facciamo a gara nell'onore, non solo nell'onorarci l'un l'altro. Venerdì ho onorato la squadra con cui abbiamo il piacere di poter guidare gli Upside Down e io vi chiedo al volo di alzarvi in piedi perché vi voglio onorare pubblicamente. Veloci, uno, due, via. C'è una squadra stupenda. Andrea, tu sarai nella mia squadra tra un po', però non oggi. Amen? Però questo è un passo profetico. Amen. Questo è un passo profetico, Andrea. Io voglio onorare Nella, Mario, Salvatore, Gianni, Mary e Michael, che non c'è sul palco, Ludovico. Questi sono ragazzi che non smettono di sognare. Io li voglio onorare pubblicamente per quanti sforzi danno. Se sto imparando questa mentalità dell'onorare, io la imparo da loro, che stanno onorando Dio, che stanno onorando noi come responsabili con tutto loro stessi. Tra di loro ci sono persone, tutti, non tra di loro, che lavorano un sacco di ore, si spaccano, arrivano a casa, anzi non arrivano a casa, vengono qui con gli abiti sporchi, vengono a ministrare sui ragazzi, a predicare il potente Vangelo. Grazie, grazie per questo. Dobbiamo fare un applauso. Sono straordinari e vi assicuro che ci sono tanti altri leader negli Upside Down con cui lo stiamo facendo e Andrea sarà presto uno di questi. Volete sentire l'ultimo punto? Prego Andrea, sei così bravo nell'onorarmi. L'ultimo punto è che questa è una storia di sacrificio. Ma il re disse a Ornan: no, lo voglio acquistare per l'intero suo valore, perché non prenderò per l'eterno ciò che appartiene a te, non offrirò un olocausto che non mi costi nulla. Questa è una storia di sacrificio. Qualcuno qui doveva pagare per questo errore. Qualcuno doveva essere sacrificato, perché la mentalità di Dio era che ogni peccato doveva essere espiato. E Dio, dopo svariati anni, ha capito che gli uomini non potevano farcela e che c'era un solo uomo che poteva veramente espiare il peccato. E sapete una cosa? Il cuore di Davide nell'offrire qualcosa di molto prezioso è un cuore che proviene direttamente da Dio, perché la mentalità di Dio è: io non offrirò niente che non mi costi nulla. Io, Dio, ha deciso che il prezzo da pagare per la nostra salvezza è il massimo prezzo di maggior valore che ci possa essere nella storia di tutti i tempi, di ogni uomo presente e futuro, ed è l'unico figlio santo, puro, senza peccato, che è Cristo Gesù. Chiesa, questa è una chiesa che crede questa verità? Questa è una chiesa che crede questa verità? C'è stata una sola possibilità per l'uomo di essere salvato, e questa possibilità si chiama Cristo Gesù. Dio, guardandoci, guardando noi, guardando te, e te lo dico di nuovo, guardando te, guardando me, ha pensato per ognuno di noi: io non offrirò un olocausto che non mi costi nulla, io offrirò Gesù. Questa è una storia di sacrificio. Qualcuno doveva sacrificarsi per questo peccato, e Gesù lo ha fatto per tutti quanti noi. Vogliamo alzarci in piedi, chiesa? Questa è una storia soprannaturale, una storia di orgoglio, una storia di piani B, una storia di onore e una storia di sacrificio. È questa la tua storia? È questa la tua storia? Vuoi oggi che Cristo Gesù sia il tuo sacrificio più alto, il sacrificio di più grande valore che ci possa essere nella tua vita, per pagare il tuo peccato? Stai scegliendo oggi che non puoi assolutamente pagare quel debito con Dio se non chiedi a Cristo Gesù un intervento soprannaturale? Stai scegliendo oggi di dare a Dio tutto l'onore che gli spetta, perché Lui ha pagato il tuo prezzo e nessun altro poteva farlo? Questa notizia è scioccante. Non puoi fare niente per la tua salvezza. Non puoi fare niente per scrivere un piano B nella tua vita. Ti puoi impegnare con tutte le tue forze, ma non avrai mai forze a sufficienza per scrivere un piano B nella tua vita, se non lo fai scrivere a Lui. E questo forse è un piano B, un C o un D per tanti di noi, ma questo Gesù ha scelto di essere il sacrificio, ha scelto di essere quell'offerta, ha scelto di essere quell'aia, quegli strumenti per trebbiare, quella legna, quegli animali, tutte queste cose le ha fatte Cristo Gesù per noi. Non serviva più niente, perché il suo è un sacrificio perfetto, il suo è un sacrificio completo, il suo è un sacrificio che non è solo per una parte della tua vita o per alcuni di noi, ma è per tutti quanti noi, per ogni cosa della nostra vita. Questa è la notizia più bella che ti potevano dare. Questa è la bella notizia del Vangelo nella quale io voglio stare, ed è la bella notizia che io non smetterò mai di predicare, di annunciare a tutte le persone che conosco. Quindi se non ti conosco, se qualcuno è qui e non mi conosce, tu rientri perfettamente nel mio scopo di vita. Io oggi devo dirti che Dio ha un piano perfetto per la tua vita, che Dio ha un piano straordinario nella tua vita, e che nella tua vita la stagione migliore non è ancora arrivata, perché Dio oggi vuole scrivere una stagione migliore per la tua vita. Se sei qui da tanto tempo, io so che forse Dio ti sta chiedendo di dare un'offerta diversa. Questo è il tempo in cui la nostra Chiesa cresca. Prima di crescere numericamente, deve crescere una cultura del Regno. Sta crescendo una cultura soprannaturale, sta venendo fuori una cultura nuova in cui le cose che accadono su nei cieli sono normalità, perché i figli di Dio costringono Dio ad operare sulla terra come è fatto nei cieli. E allora qui ci sono sempre più persone che guardano le persone malate e dicono, come il pastore diceva prima, no, nel nome di Gesù questa persona può essere guarita, quindi vieni e preghiamo. E che vedono persone vittime di abusi e dicono, questa persona può avere una storia nuova, nel nome di Gesù tu hai una storia nuova. E che vedono persone che hanno problemi, che hanno difficoltà, che vivono in conflitti, che vivono in paure, che vivono in ansia, che vivono in depressione, e puoi continuare a mettere la lista delle cose che stai vedendo tu negli altre persone, e che dicono, ehi, io conosco un nome potente presso cui c'è una storia nuova, e questo è Cristo Gesù. Amen. Amen, chiesa? Quanti vogliono essere con me? Quanti vogliono essere con me? A prendere quelle cose che accadono lì nei cieli e a vederle qui sulla terra. Quanti vogliono essere con me? Amen. Amen. Chiesa, non so se posso finire di predicare stasera, però chiesa, sono finiti i tempi di fare chiesa qui dentro. Sono finiti chiesa di fare chiesa qui dentro. La chiesa è strappare quante più anime possibile da Satana. La chiesa è togliere persone che stanno credendo in bugie. La chiesa è predicare una verità. La chiesa è dire ad ogni persona: tu sei amato, non sei un numero, non sei un caso, tu sei amato, il tuo nome è scritto nel libro della vita. Dio ha previsto la tua vita prima che tu fossi nato. E lo dico a te che ti senti frutto di un caso, che non hai capito che scopo ha la tua vita, te lo dico stasera. La Bibbia dice nel Salmo 139 che prima che i tuoi giorni fossero formati, prima che le tue reni fossero formate, Lui già ti conosceva appieno. Che bellezza essere conosciuti da Dio prima di essere conosciuti dai tuoi genitori o dal ginecologo che ti ha fatto uscire da tua madre. Che bello, Dio mi conosceva, Dio ti conosce. Dio ti conosce e Lui è il Dio dell'impossibile, che ha deciso di offrire un prezzo molto alto per te. Stasera accetta questa offerta per la tua vita. Stasera accetta questo scambio. Gesù vuole darti tutto quello che c'è nel suo regno. Lascia a Lui tutto quello che non è del suo regno. Lascia a Lui ogni cosa che appartiene al regno di Satana, per essere quel figlio che strappa anime dal nostro nemico. Amen. Vogliamo pregare. Signore Gesù, io voglio solo ringraziarti perché tu hai scelto i tuoi, perché tu conosci e stai formando in ognuno di noi un cuore davvero adoratore, che è pronto a strappare anime a Satana, che è pronto a conquistare territori che non ha mai visto, che è pronto a dire e a proclamare salvezza a tanti, che è pronto a vivere grazia come nessun altro. Io ti voglio pregare questo stasera per chi è qui, e che queste parole possano essere le parole che, con cui tu ci perseguiti, che tu ci fai sentire stanotte, che tu ci fai sentire domani mattina, che tu ci fai sentire per tutta la settimana, che provengono direttamente dal tuo cuore, nel tuo nome Gesù. Amen.